Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente dell'Expo, dell'audizione del commissario Sala, dell'arrivo del supervisore Cantoni, dico supervisore perché Raffaele Cantone, scusatemi, presidente attualmente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato chiamato dal Premier Matteo Renzi a vigilare sui lavori dell'Expo, ma ne parleremo anche con chi rappresenta i costruttori e quindi il presidente dell'ANCE, Paolo Buzzetti, perché c'è una forte preoccupazione anche dal mondo pulito delle costruzioni. Da un lato, dall'altro c'è il tema invece dei rimborsi della pubblica amministrazione, perché i rimborsi della pubblica amministrazione riguardano nel 70% dei casi la sanità italiana, ma hanno a che fare soprattutto anche con il mondo dell'edilizia. Ancora, per quello che riguarda i temi, ci occuperemo della vertenza Electrolux, perché stasera riapre e riparte il tavolo, si cerca un'intesa, alle 20 vi sarà l'appuntamento con il ministro Guidi. Abbiamo questi gli ultimi aggiornamenti. La vicenda Electrolux, ricordo, riguarda sostanzialmente i 6.000 dipendenti italiani già ridotti di 1.000 unità, a rischio ci sono altri 500 dipendenti, 4 gli impianti Porcia, Forlì, Solaro e Susegana Treviso. Ha chiuso nel 2009 lo stabilimento invece di Scandicci, mentre i sindacati fanno sapere che è pronta a riesplodere la vertenza Alcoa, quindi Sardegna, e lo stabilimento è in provincia di Cagliari. Nel giorno in cui ci sono notizie che riguardano anche il gruppo Unicredit, e notizie devo dire positive da questo punto di vista, l'andamento della borsa come va? Va sostanzialmente bene, anche se non in maniera così forte come altre borse europee. Penso a Francoforte, che guadagna l'1,1%, Parigi guadagna lo 0,20%, Milano si colloca a metà, più 0,44%, come Londra. Tra i titoli, Monte dei Paschi oggi più 4,90%, Atlantia, quindi l'ex società autostrade, più 4,70%, Jux più 2,30%, Terna più 2,20%, come la Pop Milano e Unicredit, ST Microelectronics più 1,60%, come il Banco Popolare. Tra chi cede invece, Prismian, l'ex Pirelli Cavi, meno 2,55%, Telecom meno 1,60%, Mediaset meno 1,20%, Finmeccanica meno 1%, e di nuovo Fiat perde lo 0,80%. Ancora parleremo dell'acqua. Perché? Perché domani uscirà l'annuale rapporto, se non ricordo male, di Federconsumatori sull'acqua. Però una nuova indagine sul costo dei servizi idrici nei vari capoluoghi italiani. Il Sole 24 Ore però oggi lo ha anticipato nella sua edizione del lunedì, e insomma è inutile girarci attorno, balza agli occhi che a Toscana un consumatore tipo, cioè quello che consuma 150 metri cubi l'anno di acqua, paga 350 euro a Pisa, per la precisione, ma molto alta anche il costo a Siena, Grosseto 350, Prato, Pistoia, Firenze 330. Dall'altra parte la classifica: Isernia 78 euro, Milano 80 euro, Siracusa 93 euro per lo stesso consumo d'acqua. Tra l'altro a Napoli si pagano 160 euro, mentre a Genova 280 euro. Solo la metà, nemmeno, della tariffa serve per remunerare l'acquedotto, il resto copre la depurazione, i costi di depurazione e gli altri servizi. 349-238-6666 per i vostri sms, la parte di Focus Economia su Facebook anche per scrivere. Volete già sapere di Alitalia, vi daremo degli aggiornamenti, non ci sono sviluppi diciamo drammatici né in un senso né nell'altro, però li daremo adesso tra le notizie in breve. silente perché ho detto questa sera riparte il tavolo, riapre il tavolo, si risiedono attorno al tavolo. L'importante non è, diciamo, la formula linguistica usata, ma capire se il tavolo di questa sera sull'Electrolux sarà poi quello definitivo, conclusivo, o resteranno ancora in ballo i posti di lavoro. Andiamo però alle notizie internazionali. Il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, la direttrice Christine Lagarde, dice oggi in un'intervista ad Handelsblatt, che è il Sole 24 Ore tedesco: la ripresa è in corso ma non è ancora finita, diciamo non la ripresa ma la crisi. Dice che la Banca Centrale Europea dovrebbe dare più impulsi alla crescita. Poi fa una battuta: Draghi non vuole consigli, noi diciamo che diamo opinioni necessarie. Però poi anche un plauso per il presidente della Banca Centrale Europea, dice che Draghi è stato molto abile, ha usato le parole giuste nel momento giusto. Sempre sul fronte internazionale, l'ex ministro dell'economia Vittorio Grilli, per anni anche direttore generale del Tesoro, è approdato a JP Morgan. Lavorerà a Londra come presidente del Corporate Investment Bank per l'area EMEA. Non è la prima volta che vediamo un ex ministro o un ex direttore arrivare nelle grandi banche d'affari mondiali, che da sempre prendono come consulenti, poi magari li chiamano vicepresidenti, in questo caso no, ma prendono manager che hanno avuto ruoli chiave in grandi gruppi. È inutile girarci attorno, per il loro potere anche di lobby in senso legittimo, di conoscenze, di contatti, di rapporti che hanno sviluppato negli anni in cui rivestivano cariche politiche o comunque altissime cariche nella macchina dello Stato. Bene, oggi l'asta dei bot a un anno, anche se il rendimento è leggermente risalito allo 0,65 miliardi. Il Tesoro ha collocato debito italiano a un anno, bot a un anno, per 6 miliardi e mezzo di euro. La domanda era in aumento, 1,6 volte l'offerta. Di Alitalia mi chiedevate, beh, allora oggi il ministro Lupi ha detto che vi sarà un nuovo incontro, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Lupi, rivedranno ancora l'Italia e l'Alitalia fornirà un aggiornamento al governo. Siamo un paese industriale e a vocazione turistica, ha continuato Lupi, il trasporto aereo è fondamentale, non disperderlo e non regalarlo a zero euro diventa una priorità, soprattutto non regalarlo a chi ha scommesso sul fallimento. E poi su Etihad, quindi la compagnia aerea di Abu Dhabi, il governo giudicherà l'eventuale accordo di Etihad sul piano industriale, che deve prevedere lo sviluppo della compagnia di bandiera e del nostro sistema aeroportuale. E comunque, aggiunto Lupi, se l'accordo con Etihad andasse in porto sarebbe la prima volta di un segno importante del ritorno degli investimenti sulla produttività di Alitalia. Ed è appena uscita un'agenzia che leggo assieme a voi, vertice a Palazzo Chigi in questi minuti, eccola qua, su Alitalia. Alla riunione coordinata dal sottosegretario Graziano Del Rio e in collegamento telefonico con il ministro Maurizio Lupi partecipano l'amministratore delegato di Alitalia, quindi Gabriele Del Torchio, il presidente Roberto Colaninno, Fabrizio Pagani e i rappresentanti degli istituti bancari. Sky B, e quindi gruppo Sky controllato al 40% dal Rupert Murdoch, conferma di aver avviato discussioni preliminari con la 21st Century Fox per valutare la potenziale acquisizione dei suoi asset, la Pay TV in Germania e in Italia. Erano già uscite nel fine settimana indiscrezioni sulla creazione di un unico gruppo europeo, di un'unica piattaforma europea sulla Pay TV. Adesso andiamo al primo tema, mi riferisco chiaramente agli sviluppi dell'inchiesta, ma soprattutto alle reazioni sull'inchiesta che ha coinvolto direttamente l'Expo. Prima di tutto però due notizie in breve, non è tanto sugli sprechi in senso stretto, ma sulla difficoltà che ha la nostra pubblica amministrazione anche a livello regionale a volersi fare gli esami, a essere controllata, a dimostrarsi trasparente, al di là di varie dichiarazioni di intenti che poi spesso non trovano una ricaduta pratica. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, c'è un generale dei carabinieri che era riuscito, quando fu commissariata la ASL 1 di la ASL Napoli 1, che è la più grande ASL del sud, non vi dico i casini di dentro, il ritardo nei pagamenti con i fornitori e quant'altro, era riuscito, si chiama Maurizio Scoppa, a dimezzare i costi, il bilancio della più grande ASL del sud, e quindi a dimostrare che quando non ci sono interessi politici e della pubblica amministrazione con le controparti imprenditoriali, interessi in questo caso illeciti, il bilancio della ASL 1 di Napoli può essere dimezzato. Faccio presente che il 70% degli sforamenti nel patto di stabilità interno li fa la sanità, può essere dimezzato senza venir meno al servizio, comunque con un uguale servizio. Cosa si era deciso di fare di questo generale? Di metterlo a capo dell'ufficio che doveva vigilare in Campania sui fondi dell'Unione Europea. Perché questo? Perché la Campania, come altre regioni del sud, pur essendo un'economia in ginocchio, non riesce a spendere i soldi dell'Unione Europea. Pensate che dentro la regione ci sono ancora 125 milioni al mese da spendere per due anni che non riescono a essere spesi, e allora e più quelli che devono arrivare. Allora il generale Maurizio Scoppa, vista la brillante, lo dico con massimo encomio, risultato alla ASL 1 di Napoli, l'avevano messo a fare colui che vigilava sull'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea, tema delicatissimo. E infatti si è dimesso. Perché si è dimesso? Non perché abbia avuto minacce, perché non gli hanno dato l'ufficio, non gli hanno dato il telefono, non gli hanno dato neanche un PC, e ha detto: sapete che c'è, a questo punto prendo atto, ho deciso per la risoluzione del contratto, è fin troppo chiaro che non mi vogliono qui, e intanto i fondi europei sono di nuovo tornati al mittente. Governatore Caldoro, vogliamo parlare di questo, perché guardi che la situazione è assolutamente emblematica. Dice sostanzialmente il generale: addio consulenza prestigiosa, scherza, addio compenso di circa 70.000 euro l'anno, c'è un limite a tutto, e era indecente e anche umiliante non avere era un peripatetico. Dopo 4 mesi non avevo l'ufficio nonostante numerose insistenze, non avevo il telefono, quello che avevo era staccato e senza linea, il computer l'ho portato a casa e anche la carta, non avevo una segretaria, uno staff, neanche la possibilità di protocollare le lettere, nulla, dice lui, ripeto, nulla. Per mesi nessuno è venuto a bussare alla mia porta, non ho visto una carta, un fascicolo, un faldone, un dato. Quando cercavo qualcuno con cui interloquire, incrociavo solo sguardi distratti. Dario Gargiulio, il direttore di riferimento, caro Dario Gargiulio, me lo cerchiamo poi nel prossimo giorno, Dario Gargiulio. L'ho visto solo 2 volte, quando ho firmato il contratto e poi per caso all'aeroporto di Fiumicino. Buongiorno, come sta? E poi ognuno per la sua strada. Tra l'altro, riporta il generale, quando gli capitava di girare per l'ufficio del governatore Caldoro nel cuore del palazzo Santa Lucia, dice il generale, tutti si aggirano con aria dimessa e dismessa, dal primo direttore all'ultimo usciere, e conclude: la rinuncia mia è stata dovuta all'insofferenza della pubblica amministrazione verso ogni sorta di controllo, per quel mix di inefficienza e incapacità in cui annega la burocrazia, che più periferica è, altro che federalismo in sto paese, peggio si comporta, per la certezza che tanto negli uffici nessuno ti dice mai nulla. Allora, lo so che alcuni dicono i tuoi appelli restano inascoltati, però, caro governatore Caldoro, caro direttore Dario Gargiulio, ci sentiamo per capire come mai un generale non gli avete messo a disposizione, con gli sprechi che ha la regione Campania, non parliamo poi del comune di Napoli, la regione Campania non si è trovata una linea fissa, un ufficio, una carta da lettere e neanche un telefonino. di questo dovete rispondere. Poi dico ai sindacati, visto che mi hanno scritto in molti in maniera polemica, lei discute. Allora, io mi aspetto che un sindacato che vuole stare al passo coi tempi, non rivendichi solo la necessità della concertazione a ogni costo, ma intervenga a livello regionale, a livello nazionale, chiedendo il licenziamento per manifesta incapacità di Dario Gargiulio. Mi quereli se vuole, perché è il direttore responsabile, o quantomeno la valutazione. In un gruppo privato si apre un'inchiesta, si apre una procedura, si dice: come mai c'è un'accusa così grave da parte di un ex generale dei Carabinieri messo lì a vigilare sui fondi europei che non siete riusciti comunque a utilizzare? Infatti sono tornati a Bruxelles e avete 125 milioni da spendere al mese per 2 anni, non sapete come, o meglio, quando lo sapete poi interviene la magistratura in molti casi. Allora, con i sindacati si può ragionare di questo, si può dire che il direttore, e lo ripeto per la quarta volta, Dario Gargiulio, quantomeno va sottoposto a un'inchiesta interna, ed è prevedibile anche il licenziamento quando tu non riesci a ottenere certi risultati, quantomeno per manifesta incapacità, se non ti sei accorto che in 4 mesi il generale in questione manco aveva il telefono, una scrivania, e lo tenevate apposta così? E l'hai incontrato 2 volte, di cui una quando sei insediato e l'altra per sbaglio in aeroporto? Ma cosa dobbiamo pensare? Vabbè, chiudiamo in bellezza, nel senso che ridendo. No, perché voglio dire, non se ne può veramente più delle volte di e poi è sempre pubblica amministrazione. Ah, voi volete farci fuori, ah, voi volete, ma che farvi fuori? Vorremmo che lavoraste, soprattutto in alcune regioni, come lavora un medio italiano, non parlo del punto d'eccellenza, un medio, e vi assumeste quando sei dirigente. Io vorrei sapere adesso, magari andiamo a verificarlo, quanto guadagna il direttore Dario Gargiulio, ma non per fare una caccia alle streghe, per sapere quant'è lo stipendio di chi nemmeno si rende conto che il comandante l'ex generale dei Carabinieri è stato messo nelle non condizioni per lavorare, apposta, perché io non ci posso credere che non salti fuori un telefono, un ufficio, una stanza e neanche una carta da lettere per uno che deve controllare come vengono e perché non vengono spesi miliardi di euro per una regione che ne ha bisogno. Vabbè, chiudiamo ridendo, tra virgolette, perché sotto inchiesta invece il maresciallo dell'aeronautica militare Roberto Ambrosi è in servizio al terzo reparto manutenzione velivoli di Canizzano. Perché? Perché era in malattia. E infatti, però, nel frattempo ha vinto la medaglia d'oro nella categoria gentleman, alla faccia del nome, dei mondiali AXI di mountain bike che si sono svolti lo scorso luglio a Folgaria in Trentino. Era ufficialmente in malattia quei giorni, tra l'altro lamentava un'infermità inesistente e un dolore alla gamba, per curare la quale aveva programmato per fine mese un intervento chirurgico che però non è mai avvenuto. Tra la gamba è migliorata facendo mountain bike, dopodiché i suoi colleghi hanno denunciato la cosa al Tribunale Militare di Verona e venerdì il Tribunale lo ha rinviato a giudizio per i reati di simulazione di infermità aggravata e truffa militare pluriaggravata. Vabbè, abbiamo visto cure miracolose, ma uno con male alla gamba che vince la medaglia d'oro ai mondiali di mountain bike, ecco, forse sulla categoria gentleman avrei, per carità, nella pubblica amministrazione esistono anche i miracoli. Prossima volta fate correre Lazzaro e vediamo come si posiziona. Allora, ringrazio intanto il presidente dell'ANCE Buzzetti per averci raggiunto in collegamento. Presidente, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Che non la usavamo dopo averla scoperta per primi, però insomma, Save Me era necessario dopo quello che abbiamo letto. No, invece c'è un ascoltatore o ascoltatrice, non capisco perché si firma Barbie, ma insomma, lei si occupa di economia o di tutte le magagne del paese? Ahimè, le due cose spesso coincidono, nel senso che se non si risolvono alcune magagne di carattere economico, tipo sprechi, tipo 125 milioni di euro in cassa al mese la regione Campania per 2 anni che non riesce a spendere, perché non sa spenderli senza delle volte usare mezzi che verrebbero sanzionati dalla magistratura, o banalmente non sa spenderli, è meglio star fermi piuttosto che cercare. Chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. Allora, purtroppo queste magagne fanno parte dei danni economici al paese. Comunque, presidente dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale delle Costruttori dell'Edilizia, 20.000 imprese del settore, uno dei settori più massacrati della crisi, lo ricordiamo ogni volta. Vorrei farle ascoltare, presidente Buzzetti, intanto che cosa ha detto oggi il ministro interno Alfano, ma anche alcune dichiarazioni rese questa mattina da quello che sarà il nuovo commissario a vigilare sulla legalità dell'Expo, Raffaele Cantone, attualmente presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e stamattina con Alessandro Milan a 24 mattino, e poi poco fa anche l'audizione del commissario all'Expo di Milano, Giuseppe Sala. Partiamo da Alfano. Non ci si può mai distrarre un attimo, e la questione a questo punto diventa quella di prevenire queste infiltrazioni corruttive. La task force, a mio avviso, può essere una buona idea. Fin qui siamo alla, diciamo, normale amministrazione. Ancora, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni chiede che Cantone abbia poteri investigativi veri. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Maurizio Lupi dice che la procura di Milano fa giustamente la sua parte, e Raffaele Cantone ha detto oggi, appunto, nel nostro programma 24 mattino, rinunciare all'Expo adesso, tra le altre cose, vorrebbe dire che l'illegalità in Italia l'ha avuta vinta. Domani sarò a Milano col presidente Renzi, in quella occasione capisco bene che quale sarà l'idea, diciamo, di questa task force, quale viene riconosciuto non a Raffaele Cantone, alla struttura che io presiedo, cioè all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Io non ho ancora chiaro, perché, diciamo, è semplicemente tutta una questione in itinere, tutta una cosa in itinere. Le chiedo solo questo, dottor Cantone, perché lei ha detto che la politica deve rialzare in qualche modo la testa, se si vuole. C'è una responsabilità sulla politica in generale, che lei ha visto anche leggendo quello che ha letto sui giornali in questi giorni? Ma io credo la responsabilità principale della politica sia stata quella di sottovalutare il fenomeno, cioè di girarsi un po' dall'altro lato, che Expo si è fatto, per esempio, grande attenzione alle infiltrazioni della mafia, e forse questa visione un po' strabica ha fatto sì che ci sia stata un'attenzione minore rispetto alle infiltrazioni, che non sono meno pericolose, degli affari. Sa che ci sono molti che dicono no l'Expo, lei invece dice l'Expo va fatta, è un impegno da mantenere? Ma io credo che, diciamo, rinunciare all'Expo, questa è una valutazione politica, sia chiaro, quindi a me non compete. Certo. Io però, da cittadino, e questo lo dico da cittadino, credo che rinunciare all'Expo, soprattutto adesso, non rinunciare a priori, significa dimostrare che l'illegalità vince. Cioè, significherebbe dimostrare che, siccome ci sono fenomeni corruttivi vasti, lo Stato non è in grado di far argine a questi fenomeni. È come quando si dice non facciamo una partita di calcio perché c'è il rischio tifosi. È chiaro, è evidente che queste sarebbero da tanti punti di vista delle sconfitte che io credo che la nostra democrazia non si può permettere. Però questa è una mia valutazione da cittadino. Io sono un funzionario dello Stato, se mi viene chiesto qualcosa che è nelle mie possibilità lo faccio, le valutazioni politiche rispetto alla data. Certo. E poi Giuseppe Sala, in audizione oggi alla Commissione Antimafia. Sala ha detto: mi fidavo di Paris, non potevo sospettare. Non ho sostituito Paris, abbiamo un nome, ne parleremo domani quando verrà il premio Matteo Renzi. Non sono mai riuscito ad assegnare una gara al prezzo più economicamente vantaggioso senza avere un ricorso. E Greganti non l'ho mai visto in vita mia. Ancora, per quello che riguarda il costo complessivo dell'Expo, sarà per le casse pubbliche di 1.350 milioni, ma quello che si mette è bilanciato dalle aziende partner, che metteranno 400 milioni dai paesi che parteciperanno, circa 1 miliardo di euro, e quindi rientreranno tutti. E poi Sara dice: la procura, la cosa più importante anche per il presidente Buzzetti, ci ha chiesto di andare avanti sulle gare. La procura ad oggi ci sta dicendo di andare avanti sulle gare così come sono state assegnate. Permettetemi ancora di osservare, con riferimento a ai fatti in questione, che questi fatti sono totalmente strani rispetto al filone di indagine giudiziaria che riguarda la sanità lombarda, non c'entra niente, poi mediaticamente lì si associano. E da ultimo, domani avremo la visita del Presidente del Consiglio, nel corso del quale dovremo provvedere a individuare certamente una nuova, per quanto mi compete, una nuova struttura di governo del cantiere, e quindi in primis la sostituzione dell'ingegnere Paris, e per quanto riguarda il governo, quello che il governo riterrà di dover mettere in atto vista la situazione. Allora, Presidente Buzzetti, voi, seconda parte dell'opinione pubblica, siete anche i carnefici, ma in realtà, io lo dico come premessa, chi le rappresenta è la vittima, perché quando c'è un imprenditore delle costruzioni che attraverso l'utilizzo di tangenti, mazzette, si aggiudica un appalto, risulta vittima l'imprenditore concorrente che non paga le mazzette, che probabilmente avrebbe fatto anche un lavoro migliore, visto che non avrebbe quantomeno caricato le tangenti sull'opera finale. Vorrei un primo commento su questo, ma anche su quanto ha dichiarato Sala e poi Renzi. Guardi, in ordine, certamente questo è un danno ovviamente alla categoria e alla grandissima numero delle imprese, e naturalmente è concorrenza sleale quando si verifica. Adesso lasciamo sempre ovviamente alla procura di verificare i fatti realmente come stanno, ma è quando si verificano, è logico che creano un danno a tutti quanti. Dal punto di vista delle questioni, noi diciamo da sempre questi principi, che non vengono però adottati mai, cioè innanzitutto basta con commissari e con strutture speciali. Vedi, il sistema dell'agenzia per lo scopo di fare qualcosa, un evento, un grande evento, le strutture create ad hoc, abbiamo visto ormai con esperienze in Italia che troppo spesso portano problemi, quindi sarebbe il caso di lasciarle fare agli americani, agli inglesi che le sanno fare, e non capire che dobbiamo utilizzare le amministrazioni ordinarie, ne abbiamo tante, sono in grado di svolgere gli eventi. Faccio due esempi a caso, Giubileo e le Olimpiadi di Torino, a prevalenza di controllo delle amministrazioni locali, hanno funzionato bene, e quindi non creare corpi speciali o situazioni speciali, punto numero uno. Secondo, bisogna correre negli uffici e nelle decisioni politiche, non si può lasciare un grande evento per 2000 giorni senza decidere nulla, o quasi, adesso esagero per sintesi, e poi mettersi a dire bisogna correre nel sistema di gara, bisogna correre nelle gare, nei lavori e nei cantieri, dove poi si rischia in realtà la vita dei nostri operai, dove la corsa non può arrivare a essere troppo veloce, c'è un tempo fisiologico di svolgimento. Terzo, sulle gare e i metodi di gara, ecco, infatti si diceva nelle interviste, l'offerta ovviamente è più vantaggiosa, insomma, quando c'è un progetto che l'impresa presenta, poi ci sono le commissioni che lo devono decidere, si discute sempre, se no si deve ricorrere al massimo ribasso. Al massimo ribasso in questo momento in Italia, cioè allo sconto maggiore, al prezzo più basso, non si può basare la scelta, non solo perché avvilisce le imprese, ma perché se qualcuno vuole riciclare soldi, scommettere per prendere quella gara perché magari sta in difficoltà e la vuole portare in banca, ecco, allora non può essere fatto, anche perché va a detrimento della qualità delle opere. Quindi ci vuole prima di tutto una cosa molto semplice: le commissioni, si può fare la scelta di commissari in elenchi regionali, scelti dall'amministrazione pubblica, con curriculum studiati, a rotazione vengono estratti a sorte e messi a capo di queste commissioni. Non è così complicato, lo stiamo dicendo da anni, ma non lo si vuole fare. È un passo avanti molto importante per oggettivizzare la scelta degli appalti, perché è vero che su ogni appalto c'è sempre il dubbio, il sospetto, o comunque c'è un elemento di discrezionalità. Ebbene, scegliamo bene questi commissari. Dal punto di vista dei metodi di gara, si possono fare metodi di gara sulla parte numerica, noi siamo anche propositori di sei matematici che potrebbero rendere impossibili le combine. Senta una cosa, mi dica una cosa, però l'imprenditore Vicentino Maltauro è vostro associato, l'avete espulso? Lei è associato nostro, associato dell'AGI, associato nostro, cioè abbiamo un codice etico per cui avviene in questi casi la sospensione, l'autosospensione sarà in questi casi si sospende l'imprenditore dall'associazione. E quindi in realtà sì, ritengo che ci sia un'autosospensione, quindi mi sembra il minimo. Questa è la facoltà che è data da parte dell'associazione. Se no quando? Se non ora quando, per usare? No, subito. Questo avviene subito, questo è il nostro codice etico che si rispetta ed è molto preciso. Buzzetti, lei diceva una cosa importante sulla fretta. Allora, noi abbiamo scoperto anche dalle intercettazioni che in realtà uno può pensare male, poi come diceva Andreotti, si fa peccato ma ci si azzecca, perché delle volte il sospetto è che si cerchi di arrivare sempre a un livello di emergenza per poi far passare le cose che altrimenti non passerebbero. Quando sei in emergenza bisogna fare le cose di fretta. Faccio notare che questo Expo è partito in ritardo, come tutto, per una querela che è andata avanti anni. Noi la denunciavamo, c'era allora il commissario, era Lucio Stanca, mesi per decidere se la sede doveva essere a Palazzo Reale oppure a Rho. Però questo era il grande problema, sembrava un po' le brioche di Maria Antonietta. Poi il braccio di ferro tra il sindaco Moratti, allora sindaco di Milano, e il ministro Tremonti sul ruolo di Glisenti, pure lì sembrava che questo fosse imprescindibile, e in questo modo si sono persi mesi. Lo dico perché Sala arriva solo dopo, ma non perché voglio difendere Sala, ma perché agli atti è la storia, cioè l'incapacità della politica e dell'amministrazione ha dei nomi e dei cognomi precisi nell'arrivare a partire poi con le opere in ritardo, e adesso sentiamo i comunicati che ce la dovremmo fare se non piove, capisci come si è messi? Cioè non siamo Milano non è il Mali e non è neanche il Burkina Faso, può piovere, non siamo il Sub-Sahara, e l'idea che possa piovere a Milano non può essere qualcosa che blocca l'Expo perché ci hai messo mesi il vecchio commissario Stanca a capire se voleva stare a Palazzo Reale o a Ropero, oppure lo scontro Moratti-Tremonti su Gubitosi, che Tremonti non sopportava, la Moratti spingeva, roba marziana rispetto alla posta in ballo. Dopo il traffico però le vorrei sapere da lei questa cosa dei ribassi, cioè Sala dice nessuna assegnazione di una gara, non siamo mai riusciti in una gara assegnare una gara al prezzo più economicamente vantaggioso senza avere un ricorso. Il ricorso è legittimo, ma evidentemente qualcosa non funziona. A chi mi dice che io dovessi un raccomandato perché conduco un programma economico, dovrei condurre un programma economico, ma il programma non tratta di economia, io dico che il mondo è bello perché è vario, ma l'unica raccomandazione mia sono gli ascoltatori, il numero di ascoltatori che facciamo ogni trimestre. Nessuna offesa al Burkina Faso, era solo un confronto meteorologico, cioè non siamo Sub-Sahara e se piove a Milano non può bloccarsi l'Expo. Presidente Buzzetti, la risposta sua però è appena arrivata la dichiarazione di Matteo Renzi, del Presidente del Consiglio, proprio sull'Expo. È importante che domani sarà qui a Milano per presentare anche il nuovo commissario, ascoltiamola assieme. L'Expo è una grandissima iniziativa per l'Italia. Io lo so che in tanti in questo momento stanno dicendo: ma chi te lo fa fare? O i sondaggisti che dicono: ma non ti conviene entrare dentro la dinamica dell'Expo? Preferisco rischiare di perdere qualche punto nei sondaggi per le prossime elezioni che non di perdere una gigantesca opportunità, che vuol dire investimenti e posti di lavoro. Siccome l'Italia è un grande paese, l'Italia ha il diritto di provarci, di farcela, e in questi casi non si possono fermare i lavori, si devono fermare i delinquenti. Per cui fermiamo i delinquenti e mandiamo avanti l'Expo. Allora, Presidente Buzzetti, Maltauro mi conferma che si autosospenderà, insomma, se no lo caccerete voi, perché a questo punto è la seconda volta, era già finito in un'altra inchiesta. Abbiamo un codice etico ferreo su questo. Bene. Per quanto riguarda le gare, il Consiglio fa bene a dire di continuare e a prendere i provvedimenti adesso del caso, a questo punto, naturalmente arrivati a questo punto. Sono dell'opinione che bisogna assolutamente continuare senza esitazioni, e l'Expo bisogna farlo, se no sarebbe diciamo una sconfitta nazionale incredibile. Dal punto di vista che le cose siano fatte apposta in Italia per perdere tempo, purtroppo no, sarebbe meglio se ci fosse, così dividerebbe i casi in cui viene fatto. Temo purtroppo che sia un meccanismo ormai di un'attenzione alle carte formali e piuttosto che alla sostanza e agli obiettivi delle cose, a cui ci siamo ridotti per un processo molto lungo e complesso che adesso richiederebbe troppo tempo, ma è il famoso problema amministrativo burocratico che, al di là, anche perché il singolo amministratore oggi non ha certe volte spesso né coperture né poteri decisionali, fatto sta che ormai l'amministrazione sta attenta alla formalità delle carte e arriviamo a questi ritardi, ma la politica ha le sue responsabilità perché non decide così via. Dal punto di vista delle gare, le dico che però la maggior parte, per esempio, delle imprese, delle medie e piccole imprese, non fanno tutti questi ricorsi. I ricorsi ce ne sono tantissimi e troppi, ma avvengono perché non si fa. Intanto mi creda, come le ho detto, se ci fossero nelle commissioni che devono decidere su un progetto presentato un crisma di serietà, dato, come le ho detto prima, dal meccanismo di selezionarli e di metterli in elenchi chiari, magari per regioni, dico per dire, è la prima idea che mi viene in mente, da cui si estraggano poi i tre soggetti, il presidente di commissione, eccetera, questo sarebbe sicuramente un sistema per ridare dignità e oggettività. Poi è vero assolutamente che siamo un paese in cui da troppi lunghi anni nessuno controlla più niente, per cui sarebbe bene che ci fossero accompagnati in casi particolari controlli molto attenti, dico tecnici, e di svolgimento delle cose. Quindi voglio dire, le cose si possono evitare se si cominciano a seguire questi obiettivi e soprattutto, ripeto, non creiamo strutture eccezionali mai, le cose si possono fare nei tempi giusti con strutture ordinarie e con le amministrazioni correnti. Io su questo sono d'accordissimo, anche perché poi in emergenza si passa sopra molte cose. Mi dica un'ultima cosa invece sul pagamento dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei vostri confronti. Come va? Perché molte sono imprese anche dell'edilizia. E dunque, come va? Va ancora male, nel senso che nell'ultimo provvedimento non è stata ancora presa in considerazione il pagamento complessivo della spesa in conto capitale, cioè quella per i lavori pubblici, perché finché continua a rimanere il patto di stabilità interno che impedisce ai sindaci e agli amministratori locali di pagare le imprese, salvo dure sanzioni, quindi qui in Italia abbiamo norme che colpiscono in antitesi alle norme europee coloro che, i sindaci e gli amministratori, che vogliono pagare le imprese. Quindi siamo a questo paradosso e questo assurdo. Finché non si risolve questo vulnus contabile e normativo, continuiamo ad avere questo deficit che non si completa. Il passo in avanti che va riconosciuto è quello della piattaforma elettronica, in cui, quando diventerà operativa, ci sarà una data precisa di pagamento che le amministrazioni saranno obbligate, altrimenti avranno gravi sanzioni, appena l'impresa emette la fattura, di andare subito a registrarla, e anche l'impresa potrà intervenire su questo. Questo farà sì che si ritorneranno a fare lo sconto fatture, però le ripeto che siamo sempre l'unica situazione al mondo in cui il creditore deve pagare, certo, per avere il debito di interessi sul vantaggio. Quindi la cosa non è ancora risolta e la Comunità Europea ci sta ovviamente premendo, come abbiamo visto, di tutte le iniziative che ha preso con il vicepresidente Tajani su questo campo. Quindi bisogna che il problema si risolva a monte, modificando le regole della contabilità che impediscono di pagare i lavori fatti. Allora, nel frattempo il commissario europeo Tajani ha detto che sarà inevitabile un'apertura della procedura di infrazione sui ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione. Sarà fatta la procedura europea dopo le elezioni europee. Alle costruzioni mancano ancora 19 miliardi di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Grazie al presidente Paolo Buzzetti. E 10 minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Scrive un ascoltatore: che tristezza se una radio seria è costretta a fare ascolti su argomenti così vergognosi come le tangenti. A me sembra che la vera tristezza siano le tangenti e i nomi che sono emersi, che poi noi ce ne dobbiamo occupare come ci occupiamo di tutte Le notizie di cronaca e di attualità è un portato della cosa, ma la tristezza è vedere un paese che in alcuni pezzi grossi suoi non riesce a cambiare, non vuole cambiare. Non ha capito che deve cambiare. La borsa, dovete accontentarvi di me oggi, nel giorno in cui Unicredit pubblica una trimestrale in cui l'utile sale a 712 milioni, più 60%, superiore alle stime degli analisti, e per la prima volta, questa è la buona notizia, cadono i crediti di dubbi, è la prima volta dal 2008, cioè quei prestiti fatti dalla banca che difficilmente torneranno indietro. Il tasso di copertura si conferma al 52% e c'è un calo dei crediti deteriorati lordi di 1 miliardo e 100. E poi ripartono i nuovi crediti a quota 2 miliardi e 700 milioni, di cui più 153% rispetto ai primi tre mesi del 2013 i nuovi mutui. Più vicino all'obiettivo dell'utile a 2 miliardi, dice il numero 1 Ghizzoni. Domani cercheremo di avere o lui o Nicastro ospiti nel programma. I titoli in borsa. Allora, giornata più che positiva non solo per Unicredit più 1,40%, ma anche per il Monte dei Paschi di Siena, nel giorno in cui ha preso via il raggruppamento azionario. Nel pomeriggio il titolo perdeva in mattinata intorno al 2%, poi ha cambiato drasticamente rotta, ha chiuso con un più 5,20%, il miglior titolo nell'S&P MIB. Bene anche Atlantia, più 4,5%. Bene Terna, più 2,40%, ST Microelectronics più 2%, Yux più 2%, poi la Pop Milano più 1,90%. Anche in questo caso c'è un apprezzamento per i conti della trimestrale, del primo trimestre dell'anno, decisamente positivi. Cede invece Mediaset l'1,30%, in attesa di quello che ricordavamo in apertura del riassetto del mercato delle pay TV in Europa, dopo le varie indiscrezioni, il piano che viene attribuito a Sky B e quindi a Rupert Murdoch di arrivare all'unica piattaforma di pay TV europea. Ancora in leggero calo Telecom, meno 1,40%, c'è attesa per la pubblicazione della trimestrale. E poi perdono terreno oggi Prismian, meno 2,5%, ma anche Autogrill, 0,70%. Migliori e peggiori. Il peggior titolo è Seat, pagine gialle, meno 10,50%, Bastoggi meno 5,26%, Media Contact meno 4,70%, miglior titolo Mondo TV France più 14% e Cell Therapeutics più 6,60%. Devo dare anche una notizia che ci riguarda, nel senso che è uscita la trimestrale anche del Sole 24 Ore, ha dimezzato la perdita nel primo trimestre, portandola a 5,8 milioni di euro contro i 10 milioni e mezzo di perdita del primo trimestre del 2013. I ricavi sono in crescita del 4,4% a 98 milioni. Il margine operativo lordo, quindi guadagni prima degli interessi e delle tasse, è a 2 milioni e 200 milioni contro un margine operativo lordo negativo un anno fa per 6 milioni di euro. E poi il Sole 24 Ore si è confermato il primo quotidiano digitale nazionale con 170.000 copie digitali a marzo del 2014. Avete ragione, il raggruppamento delle azioni non è, forse c'è stato un mio refuso, non è partito la settimana scorsa, ma continua l'effetto. Mi riferisco al Monte dei Paschi, chiedo venia se ho detto che è partito oggi. Invece, per quello che riguarda un'anticipazione che vi ho dato, non ce la facciamo oggi a parlare di acqua, ne parleremo domani. Ce la facciamo però a parlare di Alitalia, perché appunto c'è stata poco fa la notizia dell'improvviso vertice su Alitalia. Ho visto anche una dichiarazione di Ghizzoni che dice: non so dove siano le altre banche, questa è la seconda riunione. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, se ho ben visto, è iniziato poco fa, mezz'ora fa, un incontro tra Del Torchio a Palazzo Chigi, c'è Graziano Del Rio, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, in collegamento telefonico il ministro Maurizio Lupi, il numero uno di Alitalia Gabriele Del Torchio è presente, il presidente Roberto Colaninno e poi Ghizzoni e Fabrizio Pagani. Gianni. C'è questo incontro con le banche a cui che rappresentano un po' il punto chiave per capire se si può superare l'ostacolo su cui si è fermata la trattativa, cioè la questione finanziaria, la questione del debito di Alitalia. Etihad vuole che venga tagliato, ridotto di quei 400 milioni di cui parliamo da qualche mese ormai, e quindi questo vertice dopo l'ultimatum dato anche giovedì scorso da Del Rio, c'è stato un altro incontro, dovrebbe servire a vedere se ci sono delle risposte per poter rendere sì viabile oppure no. Siamo a un momento, diciamo, di svolta. Insomma, non credo che possa durare ancora a lungo questa incertezza nella trattativa. Sì, però questo era un vertice convocato, insomma, all'improvviso. Noi leggevamo a inizio programma le dichiarazioni rese oggi da Lupi e altri. Evidentemente c'è bisogno di un'accelerazione. Avevo visto delle dichiarazioni in mattinata in cui Lupi diceva attenzione su all'Italia, era Lupi se non ricordo male, non andremo a regalarla, però ne cederemo a chi punta al fallimento. Il governo giudicherà Etihad sul piano industriale, se andasse in porto l'accordo sarebbe un'inversione di rotta perché per la prima volta arrivano soldi per investimenti sulla produttività. Per cui la tua sensazione è che si cerchi di chiudere comunque? Ma si cerca di verificare se c'è la possibilità di chiudere oppure se questa possibilità non c'è, almeno non su queste basi. Diciamo che uno degli azionisti più importanti con cui ho avuto occasione di parlare oggi prima dell'incontro, non, senza spiegare come va a finire, ha detto che in un modo o nell'altro in pochi giorni si dovrebbe capire se la trattativa si sblocca o se le distanze rimangono incolmabili. Quindi c'è la volontà di arrivare a chiarire qual è la posizione ultima e definitiva anche dei soci italiani e delle banche. Staremo a vedere a questo punto. Grazie Gianni Dragoni, era importante fare un aggiornamento. Adesso le informazioni sul traffico e poi invece una vertenza che si riapre questa sera, e mi riferisco alla vicenda Electrolux. Il tavolo, se ho ben visto, è convocato per le 20 di questa sera. 21. La voce che sente è quella di Paolo Brico, che adesso ci aggiornerà su questo. Allora, Electrolux, lo dico a tutti, multinazionale svedese, 60.000 dipendenti nel mondo, 22 impianti in Europa, ha da sola un quarto, il 25% del mercato mondiale degli elettrodomestici. In Italia ha 6.000 dipendenti, già ridotti di 1.000 unità se non ricordo male, ce ne sono altri 500 a rischio. Ci occupammo di Electrolux per la vicenda che riguardava anche l'impianto di Porcia, di Pordenone, dove si producono le lavatrici. Poi c'è un altro impianto a Forlì dove si producono forni e piani di cottura, a Solaro, in provincia di Milano, le lavastoviglie, e invece a Susegana, in provincia di Treviso, i frigoriferi. L'impianto di Scandicci invece chiuso nel 2009. Questa sera sindacati e azienda cercano un'intesa al Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministro Guidi, il Vice Ministro Claudio De Vincenti. Se ho ben capito, mercoledì si riunirà invece sempre al Ministero il tavolo con i rappresentanti delle amministrazioni locali. Allora, Paolo Bricco del Sole 24 Ore ha seguito anche questa crisi, come si chiama in gergo, o ristrutturazione aziendale. Qual è il punto di caduta, cioè il punto su cui si potrebbe trovare un accordo, se esiste? Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. C'è ottimismo, probabilmente si riuscirà a trovare un punto di accordo. Il tema riguarda come sempre il contributo diciamo dei soldi pubblici diretti o indiretti, nazionali o locali, e la disponibilità dell'azienda a cercare di tenere il più possibile quei 500-600 dipendenti all'interno del perimetro occupazionale. C'è ottimismo, anche se in qualche maniera il governo, da quello che si intende, vorrebbe aumentare il pressing nei confronti dell'azienda, cercando in qualche maniera anche di avere delle garanzie sulla reale ristrutturazione e riorganizzazione interna. Perché da subito la vicenda Electrolux è sembrata una vicenda complicata, dato che il tipo di prodotto di cui stiamo parlando, l'elettrodomestico, ormai prodotto, realizzato in Europa, ha un basso valore aggiunto e costi troppo elevati, e quindi c'è un problema strutturale. Dall'altro c'è la propensione da parte delle multinazionali, in questo caso Electrolux, di incassare soldi, incamerarli, non riorganizzando adeguatamente la produttività degli stabilimenti, e questo è un problema. Faccio un esempio: la fondazione Ergo Was ha fatto un'analisi recente che faceva vedere come la produttività dell'elettrodomestico del bianco in Spagna è molto più elevata, e nessuno lo direbbe, rispetto a quella che è in Italia. Quindi ci sono grossi margini, e quindi anche le grandi fabbriche multinazionali, oltre a prendere i soldi pubblici italiani, devono anche impegnarsi a riorganizzare e rimodulare l'organizzazione interna. Negli ultimi anni questo in Italia non è stato fatto. Che opportunità tu vedi per questa soluzione? Nel senso che si potrebbe arrivare, perché noi abbiamo visto già nel passato, negli ultimi mesi, annunci di si è trovato l'accordo, si era messa anche a mediare tra virgolette l'Unione degli Industriali di Pordenone, sì, perché riguardava soprattutto Porcia, e poi tutto si è rifermato. Ma io credo che a questo punto sarebbe davvero difficile, dato che tutti hanno giocato le loro carte fino all'ultimo, pensare che non vi sia un accordo. Se questo succedesse, vorrebbe davvero dire che il lungo iter che c'è stato, sia a livello di associazioni locali che a livello di associazioni nazionali, che di sindacati che di governo, veramente verrebbe a meno, e a quel punto si potrebbe addirittura pensare alla scelta di un disimpegno da parte di una multinazionale come Electrolux. Questo mi sembra improbabile, anche se, come dire, è sempre possibile. Diciamo che in questo momento il fronte delle crisi industriali italiane ha dei punti di rottura maggiori, come ad esempio quello di Alcoa. E lì volevo arrivare, perché tu sei indeciso se andare poi a Pordenone o prendere un biglietto o ti manderanno, diciamo, a Cagliari. Al di là della battuta, qui c'è un'avvertenza al COA che potrebbe riesplodere con più vigore tra qualche giorno, non solo a Cagliari ma anche a Roma, perché i lavoratori del Sulcis, che sono rimasti a casa con la chiusura dello stabilimento di Porto Vesme, sono 150 operai dell'indotto, che non ricevono da 4 mesi il sussidio degli ammortizzatori sociali in deroga, quindi sono senza niente. E altri 350 dipendenti diretti, dove si cerca ancora uno spiraglio nelle trattative avviate dal governo con la Clash, su cui la regione Sardegna pone una moderata fiducia. Ma insomma, è più difficile chiudere Electrolux o Alcoa? Beh, io direi chiudere come vertenza, non come stabilimento, perché non voglio essere frainteso. No, è sicuramente più semplice chiudere Electrolux. Electrolux è un interlocutore serio, strutturato, i sindacati hanno un impegno forte, le associazioni industriali locali e nazionali si sono spese molto su questo fronte, vi saranno sacrifici da fare da ambo le parti, vi sarà da fare una riorganizzazione, ma difficilmente si andrà in qualche maniera ai materassi. Completamente diversa è la situazione invece di Alcoa. Dobbiamo ricordare che il 30 di giugno in teoria verrà spento definitivamente e cade l'impegno del precedente proprietario dell'impianto siderurgico di Porto Vesme di a tenere accesi gli impianti, e quindi dal 1 luglio in avanti teoricamente nessuno ci sarà più a fare la guardia, tra virgolette, di quello che è stata una degli impianti siderurgici più importanti della storia industriale italiana, appunto a Porto Vesme. Lì è molto molto più difficile, perché lì non c'è più di fatto per il governo e per i governanti regionali una controparte, nel senso che Alcoa si è chiamata fuori, ha fatto ciò che riteneva opportuno fare. C'è da lunghissimo tempo un filo che non si è mai spezzato con Clash, che è un fondo di investimento che i più maliziosi definiscono avvoltoio, questo filo non ha mai portato a nulla di concreto. Ora il rischio davvero è che nel secondo semestre di quest'anno si arrivi alla chiusura di quell'impianto. Che poi la chiusura di quell'impianto sia nella natura delle cose, come alcuni potrebbero sostenere, dato che è poco economico fare quel tipo di lavorazione lì, oppure che sia una iattura, perché comunque quello è un pezzo dell'indale industriale da preservare e da rilanciare, questo è un altro paio di maniche. Però lo stato dell'arte è che appunto nel secondo semestre di quest'anno potrebbe davvero finire un capitolo importante della storia manifatturiera italiana. Ma perché, scusami, allora la regione Sardegna è abbastanza fiduciosa nelle trattative con Clash? Io credo che, come dire, sia una scelta doverosa di pragmatica, perché ricordiamo, la Sardegna, soprattutto nel Sulcis Inglesiente, è una delle regioni più povere d'Italia, se non del nord del Mediterraneo. Ha tassi di disoccupazione giovanili mostruosamente elevati. Lì, se muore la speranza, davvero potrebbe aprirsi uno scenario di disperazione sociale molto molto molto grave. Sì, che il problema adesso, col massimo rispetto, lo dico, non voglio polemiche, degli operai e dei dipendenti dell'Electrolux, è chiaro che restare disoccupati a Pordenone, o comunque avere degli esuberi a Pordenone, è una tragedia, nel senso che comunque deve cercare un lavoro. Restare disoccupati nel Sulcis, l'Iglesiente, diventa va oltre la tragedia, rischia di restare semplicemente un dato di fatto, perché le condizioni di lavoro sono, e le offerte di lavoro sono praticamente inesistenti. Sono assolutamente d'accordo con te. Occorre comunque avere la lucidità per descrivere situazioni diverse in un paese estremamente frastagliato come è l'Italia. Sono assolutamente d'accordo. Il posto di lavoro in Veneto, perderlo è un dramma, e perdere un posto di lavoro in Sardegna, in quella Sardegna, è una tragedia. Grazie Paolo Bricco, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Poi vedremo, ve lo diranno i nostri GR24 questa sera, domani mattina, a che esito porterà questo primo incontro per Electrolux. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, comunque vada, l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.